13. Pessime notizie, Maria. I tristi pensieri dell'altra sera erano un vero presentimento. Sapessi come maledico questa mia seconda vista. Ma ce l'ho e me la tengo. Prima di tutto, dunque, le cose che mi riguardano. Non so se ti avevo detto che il mio coerede era già stato sposato. Io comunque non sapevo che con la prima moglie egli avesse concluso un patto identico a quello stipulato con me riguardo alla divisione dell'eredità. Quella donna poi si è comportata male, allora lui ha voluto il divorzio, ma ora, in seguito alla morte del vecchio signore, lei è ricomparsa sulla scena, decisa a far valere i suoi diritti. Infatti ha minacciato attraverso il suo legale di far mettere sotto sequestro l'intera eredità. Nell'ipotesi migliore ci sarà dunque un ulteriore ritardo. E in quella peggiore, no, è un pensiero che al momento preferisco rimuovere. Lucas si è fatto mogio mogio ormai. Ed è convinto che un avverso destino metta in campo contro di me le cose più strane. Lui, il coerede, sta meditando di ritornare a casa tra non molto e in quell'occasione ha detto mi verrà a trovare. Comunque deve ancora sbrigare varie formalità. Se questo fosse tutto, almeno, invece no, anche l'affare del petrolio ci procura gravi preoccupazioni. Balailov si dimostra ogni giorno più succubo dell'idiota tutto nero, il quale tra l'altro si è comprato ultimamente un gran numero di abiti bianchi, sicché siamo stati incerti se ribattezzarlo o meno, e ci ha già parlato di un suo progetto di mandarlo in Russia per un viaggio di ispezione, poiché ultimamente gli sono giunte di lì notizie negative. Prima di tutto il terreno non sarebbe affatto così ricco di petrolio come all'inizio avevamo pensato. E poi ci sarebbe dell'altro. Harry sostiene, basandosi su un'esperienza assai vasta, che quando si assumono simili iniziative, inconvenienti del genere capitano sempre che per il momento non è affatto il caso di preoccuparsi. Sarebbe secondo lui un'abitudine di questo tipo di consorzi diffondere ora una diceria ora l'altra, tanto per pubblicizzare l'iniziativa o per non so quale altra finalità, dato che non sono riuscita a seguire fino in fondo il suo ragionamento, che di sicuro Balailov ha capito ancor meno di me. L'idiota adesso pretende invece di saperne più di tutti gli altri, anche sull'estrazione del petrolio. Mentre prima sembrava che la sua competenza fosse limitata ai documenti che servono per sposarsi. Infatti, ogni volta che si parlava d'altro, lui subito ammutoliva e sbatteva le mandibole con aria smarrita. Al momento in questo posto egli è ancora indispensabile, poiché a quanto pare, nonostante i suoi sforzi, la pratica del matrimonio è sempre allo stesso punto. Balailov qualche volta è nervosissimo e si lamenta delle somme incredibili che gli tocca sborsare per corrompere i funzionari. Noi di quel nero individuo non ci fidiamo per niente. All'ora dei pasti continua come sempre a sedersi al nostro tavolo, non riusciamo a liberarcene in nessuna maniera, anzi, se ne sta lì e continua a fissarci con quei suoi occhi sbarrati, nonché a raccontare, ammesso che gli si lasci aprir bocca, episodi della sua vita passata che a sentir lui è stata piuttosto avventurosa. All'inizio lo mettevamo a tacere dopo pochi minuti, ma ora ogni tanto lo lasciamo parlare in modo da impadronirci di qualche argomento da poter usare contro di lui. Finora abbiamo potuto appurare soltanto che gli mente in maniera inaudita e che solo in presenza di Balailov racconta dei fatti un po' più attendibili. Quanto a noi, egli ritiene evidentemente che crediamo a tutto quello che ci racconta, dato che ascoltiamo in silenzio e non manifestiamo mai il benché minimo dubbio. Sembrerebbe quasi che siamo vicini alla nostra meta e che fra poco, grazie a un'importante scoperta da noi compiuta, potremo mandarlo a gambe all'aria. L'altra sera ci trovavamo nella stanza di Harry e di lì, come al solito, sentivamo la fidanzata di Balailov, che abita in un padiglione adiacente alla nostra ala separata, mentre suonava il pianoforte. Ma tale è l'abitudine a sentirla tutte le sere che non ci abbiamo fatto caso. Balailov a quell'ora non c'è mai perché se ne va in giro tutto solo per la città. Quella sera dunque stavamo conversando pacificamente fra noi. Harry aveva portato su del vino dall'ufficio e Bauman, piuttosto brillo, disse a un tratto con aria meditabonda: «Sentite un po' che strano, sta suonando a quattro mani». Noi non dicemmo nulla e cominciamo a riflettere, mentre l'amica di Bauman, serissima, provò a convincerlo che non era possibile che una sola persona suonasse a quattro mani. Naturalmente, in presenza della ragazza non avevamo voglia di manifestare i nostri sospetti, ma quando lei se ne fu andata, subito spegnemmo la luce e ci affacciamo alla finestra, in ansiosa attesa che il pianoforte tacesse. Di lì a breve scorgemmo infatti il segretario privato, il nero, che di soppiatto si allontanava attraverso il giardino. Che fare adesso? Ci fu sull'argomento una lunga e animata discussione, certo che non si può denunciarli e basta, in definitiva sono fatti loro. D'altra parte, anche se negli ultimi tempi si è comportato male, Balailov è pur sempre in qualche modo un nostro amico, mentre la fidanzata non riusciamo a sopportarla e dell'idiota saremmo lieti di sbarazzarci. Se uno degli uomini del gruppo dovesse aprire gli occhi all'ignaro Balailov e gli spiegasse quello che sta succedendo, beh, le cose potrebbero anche mettersi male e senza dubbio quei due negherebbero tutto. Ah, sa Dio poi se in effetti non si limitano a suonare il pianoforte insieme. Eppure, ha sostenuto Harry, dire a Balailov come stanno le cose sarebbe quasi un dovere di buoni cristiani, perché se l'idiota gli mette le corna con la fidanzata, lo farà di sicuro anche col petrolio, non appena riuscirà ad avere le mani in pasta, e allora l'affare andrà in malora anche per noi. All'inizio dunque ci siamo limitati al tentativo di portare il nero su un terreno scivoloso. Già il mattino dopo, con la mia aria più innocente, io gli ho chiesto se riteneva che una persona assai dotata per la musica potesse da sola suonare a quattro mani. Balailov è scoppiato a ridere forte, dunque non sospetta nulla dei concerti notturni. La fidanzata ha cambiato colore, è chiaro perciò che ha la coscienza sporca. L'idiota invece è rimasto impassibile. E mi ha tenuto un discorso piuttosto lungo sulla tecnica del pianoforte, nonché sulle sue numerose possibilità e impossibilità. Ah, il mio è stato un errore madornale, perché ormai sono messi sull'avviso e non suonano più insieme. A questo punto, nell'intento di soppiantare l'idiota, Harry Bauman, ma non il libero docente che si è rifiutato, si sono messi con grande impegno a fare la corte alla fidanzata. Lei non ha manifestato alcun tipo di reazione. E così si è ottenuto soltanto che Balailov adesso ce l'ha con noi ancora più di prima. Ma esiste un altro piano, che finora avevamo tenuto di riserva. In effetti, già da tempo ci eravamo stupiti che né a Balailov né alla sua fidanzata fosse mai venuto in mente di sposarsi in Inghilterra. Lui stesso, in definitiva, di questi benedetti regolamenti non sa proprio niente, ma in un russo con i suoi ghiribizzi, la cosa non è poi così strana. E certo il suo factotum se ne guarda bene dal metterlo al corrente di una simile possibilità, già che in tal caso l'intera faccenda si concluderebbe in brevissimo tempo, il che, come ovvio, non è nel suo interesse. La stessa cosa, te lo dico con chiarezza, vale anche per noi. Non abbiamo mai caldeggiato particolarmente questo matrimonio e anzi abbiamo continuato a sperare che esso venisse procrastinato il più possibile. Nell'attesa che l'affare del petrolio, perché adesso sì che siamo tutti estremamente interessati, tant'è che abbiamo intenzione di entrarci, non appena avremo ottenuto una qualche garanzia. A Lucas, nonostante la saggezza da economista che lo contraddistingue, il sangue, che in questo caso è petrolio, ha dato alla testa e gli è venuta una gran voglia di incrementare il suo modesto capitale. Bauman vorrebbe guadagnare molti soldi partendo quasi da zero e io, se possibile, vorrei riparare alla sventura che mi è capitata con la legittima. Se solo Harry, come fondatore di società, non fosse così per bene, sto infatti cominciando a capire che proprio la correttezza eccessiva compromette continuamente il buon esito dei suoi affari. Quante volte, bluffando un po' di più, avrebbe potuto ottenere un buon risultato, ma lui non vuole assolutamente. Preferisce dare un gran pugno sul tavolo esclamando: «Per la miseria! Bisogna che funzioni anche così!» Credi che sarebbe capace di falsificare una cambiale? Ma che? Si può capirlo comunque. Sarebbe un'irregolarità e tutti ci teniamo a non essere sbattuti fuori dal nostro ambiente. Lo stesso sta capitando adesso, nel caso di Balailov, col suo idiota. Harry riterrebbe unfair da parte nostra, non carino, se ci mischiassimo direttamente nei loro rapporti e preferisce aspettare che l'idiota si scavi da sé la propria fossa con l'aiuto della giustizia divina. Io sono convintissima invece che una cosa simile a quell'individuo non potrà mai succedere. La fidanzata è diventata molto prudente. All'apparenza il flirt tra quei due è finito del tutto, ormai si trattano soltanto con fredda cortesia. Ma che tramino contro di noi è chiarissimo, infatti Balailov diventa ogni giorno più scorbutico. 14. Ebbene, la bomba è scoppiata e per questa volta sembra che abbia ragione Harry quando sostiene che le cause giuste sono destinate a un immancabile trionfo. Sai, la tensione era sempre più penosa e l'idiota ogni giorno più arrogante. Fu così che giungemmo a una decisione, o lui o noi. Ci risolvemmo a giocare la nostra ultima carta, che consisteva nel dare a Balailoff tutte le informazioni necessarie per le sue nozze in Inghilterra. Che si sposasse pure, nel nome di Dio, a noi importava soltanto di rovinare il nero, o quantomeno di screditarlo. Harry pregò dunque Balailoff di recarsi a un colloquio con lui, al quale avremmo preso parte anche Lucas ed io. Balailoff venne e all'inizio mantenne un certo riservo. Harry gli presentò la cosa con grande eloquenza, dicendo fra l'altro che di un caso simile al suo avevamo già parlato parecchio tempo addietro, in presenza del suo segretario. E allora Balailoff si fece assai pensieroso. Domandò poi come mai non lo avessimo informato prima. Ebbene, gli fu risposto, innanzitutto avevamo voluto assicurarci che davvero la cosa fosse semplice come sembrava e perciò avevamo raccolto tutte le informazioni del caso e in quella Harry estrasse dalla tasca un pacco di lettere e dopo avergliele espressivamente sventolate sotto il naso, le rimise al loro posto. Ma poi era comparso all'orizzonte quel signore tutto nero e da quando Balailoff gli aveva concesso la sua completa fiducia a noi era passata la voglia di mischiarci nei suoi affari. E neanche adesso veramente volevamo farlo. Era solo nostra intenzione domandargli se pensava davvero che grazie ai traffici all'opera di corruzione svolta dal suo segretario esistessero delle buone probabilità con la sua pratica di andare a buon fine in tempi brevi. Al povero Balailoff, che pure secondo me è durissimo di comprendonio, cominciarono a poco a cadere le bende dagli occhi. Inoltre fu sopraffatto da un affetto improvviso verso di noi e ci disse che aveva affidato al segretario varie pratiche finanziarie delle quali in seguito non si era più curato. E se fosse risultato che su quell'uomo, contrariamente a quel che finora aveva creduto, non si poteva fare completo affidamento, ebbene, una sfilza di improperi in russo completarono il suo pensiero e subito dopo, avvicinatosi a Harry, lo abbracciò commosso. A me e a Lucas strinse vigorosamente la mano e dopo aver dichiarato che noi, soltanto noi, eravamo i suoi veri amici, espresse con vivacità il suo bisogno di alcol. Sicché, dopo tanta freddezza, finalmente ci ritrovammo insieme per bere un cicchetto alla nostra rinnovata amicizia, al matrimonio in Inghilterra e anche, come sempre, all'affare del petrolio. In seguito a quell'importantissima serata, egli è dunque di nuovo dei nostri e si occupa con fervore di impartire le necessarie disposizioni per il viaggio in Inghilterra. Non volendo dare troppo nell'occhio, ha preferito non licenziare in tronco il segretario, ma lo fa sorvegliare da un detective che a quanto pare sta scoprendo ogni sorta di imbrogli da lui compiuti su vasta scala. Comunque, per il momento Balailoff ha deciso di tenerlo al suo servizio, ma ormai gli affida soltanto qualche piccolo incarico di scarsa importanza. L'idiota è piuttosto perplesso e non sa esattamente cosa pensare. Ha sempre quel suo solito sguardo da scemo, ma un minimo di espressione il suo viso l'ha acquistata, un'espressione ansiosa. Sembra quasi che gli ci osservi con una sorta di dolente ironia. La fidanzata è di nuovo assai spesso al nostro tavolo, ma non è affatto chiaro quello che ha in mente e continua a comportarsi con noi come se fossimo fatti di aria. Noi la evitiamo quanto più è possibile e con un senso di profonda serenità abbiamo ripreso l'abitudine di trovarci in terrazza, dove lasciamo che queste afose giornate scorrano lentamente una dopo l'altra. Di sera vengono sui nostri amici, ora hanno conosciuto anche Balailoff, il quale ogni giorno di più si sente legato a noi e ha dichiarato di trovarli affascinanti. Sempre gli attori e i russi si trovano affascinanti a vicenda. Il viaggio in Inghilterra è stato fissato per il 10 agosto. Balailoff non fa altro che dirci che dobbiamo assolutamente partire con lui, ci vuole come testimoni alle nozze. Noi però siamo molto restii a piantare tutto in asso, gli affari, i nostri interessi privati e anche la casa di cura alla quale ci sentiamo legati da una specie di amor patrio. D'altro lato bisogna anche considerare se non sia per caso inopportuno perdere di vista Balailoff completamente, comunque ha giurato che tornerà. 15. La decisione ci è stata risparmiata, ma in compenso è scoppiato quel che si dice uno scandalo. Mi dispiace solamente che noi non possiamo divertirci come gli altri pazienti, i quali se lo godono appieno. Balailoff era partito per alcuni giorni e aveva chiesto alla fidanzata di seguirlo, ma lei si è tirata indietro col pretesto di stare poco bene. La seconda mattina dopo la sua partenza, il domestico di Balailoff, che ha preso l'abitudine di portarci in camera la prima colazione, bussò disperatamente a tutte le nostre porte. Siccome avevamo fatto tardi la sera prima, nessuno di noi aveva voglia di svegliarsi a quell'ora. E così gli gridammo dalle varie stanze e di posare il tutto nel corridoio e di lasciarci dormire. Ma lui insistette, voleva parlare di persona con uno qualsiasi di noi. Lo convocammo allora nella sala comune dicendogli di portare la colazione per tutti e lì ci radunammo dopo una sommaria e rapida toilette. Il pianoforte era ancora aperto, ovunque erano sparsi bicchieri sporchi della sera prima e noi ci sentivamo un po' a disagio, come accade svegliandosi al mattino dopo una sbornia non del tutto smaltita. Apprendemmo allora che la promessa sposa se l'era svignata durante la notte con il signor idiota, così chiamato cortesemente da quel bravo uomo di Ivan, e che entrambi avevano portato con sé tutto il loro bagaglio e dunque, evidentemente, non intendevano tornare indietro. Ivan, devotissimo come al suo padrone, era davvero fuori di sé. Noi redigemmo all'istante un telegramma per Balailov e dopo averlo consegnato a Ivan lo congedammo. Passata una mezz'ora comparve il professore, il quale volle sapere quello che sapevamo noi ed era in uno stato di agitazione inaudita. Per fortuna nel frattempo avevamo fatto riordinare la sala e ciascuno di noi era seduto composto e dignitoso davanti alla sua tazza di caffè. Soltanto Luca si indossava una vestaglia un po' strana. Per una volta eravamo davvero totalmente innocenti, anche se all'inizio il professore non ci volle credere. Ma Harry poi, ritorcendogli l'accusa, dichiarò che su quel punto non gli era mai riuscito di capire Balailov e neanche il fatto che un simile idiota fosse stato tollerato così a lungo nell'istituto, che fosse un truffatore e quell'uomo lo aveva scritto in fronte. Harry parlava e tutti noi assentimmo vivacemente, ma per nostra sfortuna non siamo mai riusciti a esercitare la minima influenza su quel vecchio testardo del professore. Questi si guardò intorno nella sala, quasi che le nostre infamie potessero semplicemente depositarsi sui tavoli e sulle sedie. Poi ci domandò se eravamo soddisfatti delle nostre camere, poiché non era escluso, aggiunse, che dovessimo trasferirci di nuovo, dato che forse nella nostra ala sarebbero iniziati tra non molto dei lavori in muratura. Anche a Bauman toccò in questa occasione qualche frase pungente. Non si sa come il capo è venuto a sapere che egli ci psicoanalizza, cosa che gli ha dato un grandissimo fastidio. Adesso davvero non dobbiamo fare più nulla che dia nell'occhio. Poi, grazie a Dio, se n'è andato e noi abbiamo continuato pensosi la nostra colazione. Purtroppo abbiamo dovuto ammettere all'unanimità che l'idiota tutto nero era stato decisamente più intelligente di noi. Ammissione deprimente la nostra, ma chissà, pensavamo, può darsi anche che proprio da questa evenienza nasca il rimedio per l'affare del petrolio. Bisogna riuscire a prendere Balailov per il verso giusto, è tutta lì la questione, o almeno Harry la pensa così, ma Harry è un tale illuso. Già, c'è stato ben poco da prendere per il giusto verso. Appena ricevuto il nostro telegramma, Balailov è tornato di corsa. Non ti dico all'inizio cos'è stata la sua furia? Veramente indescrivibile, e noi non abbiamo potuto fare altro che tenerlo in continuazione sotto i vapori dell'alcol, cosa di cui Harry si è incaricato personalmente con un coraggio da leone. Intanto le ricerche sono proseguite in direzione di tutti e quattro i punti cardinali, e così si è saputo che i fuggiaschi si sono diretti in Inghilterra. È la cosa che quasi ha colpito di più Balailov. Tra l'altro l'idiota è riuscito a portarsi via delle somme veramente cospicue che aveva prelevato a suo nome. Se non fosse per questo non ci sarebbe in realtà da rimpiangere che quei due siano scomparsi senza lasciare traccia. In loro assenza l'atmosfera è molto più intima. 16. Non dovete essere così curiosi, Maria, e neanche così impazienti. Decidetevi a prendere esempio da me e dalla cristiana rassegnazione con la quale io stessa sono in attesa dei prossimi eventi. Chi non riesce con costanza e tenacia a fare buon viso a cattivo gioco diventa nervoso per forza. È un'arte difficile, io l'ho imparata poco a poco e con grande fatica e voi dovete smetterla di importunarmi. Fare la festa quando è il santo, ma la festa del petrolio, che aveva dato adito a così grandi speranze, è sfumata del tutto proprio nel momento in cui si pensava di poterla celebrare in pace. L'idiota tutto nero ha trafugato a quanto pare somme così mostruose che Balailov ha dichiarato recisamente di essere costretto a ritirare il suo capitale e a vendere i terreni. Harry ha tentato invano di persuaderlo che per rimettere in sesto le sue finanze non c'era niente di meglio di quell'impresa. E neppure è servito ricordargli che le cose sono ormai a un tale punto che egli, anche nell'interesse degli altri soci, non ha il diritto di tirarsi indietro proprio adesso. E vani sono stati anche i nostri tentativi di rallegrarlo, radunando qui ogni sera dalla città i nostri amici attori. Qualche volta abbiamo avuto la troupe quasi al completo ed eravamo sulle spine al pensiero che lo spettacolo potesse svegliare gli altri pazienti. Balailov si limitava a ubriacarsi e una volta tornato sobrio ripeteva sempre la stessa cosa, che dopo quello che era successo con il suo segretario aveva perso la fiducia nel genere umano e non voleva sapere più nulla né della fidanzata né del petrolio. Non c'è stato più niente da fare. I rapporti fra lui e Harry si sono definitivamente guastati. Poi Balailov, convinto com'è che dall'alcol derivino tutte le sue disgrazie, si è lamentato col professore e lo ha accusato di non essere riuscito a togliergli l'abitudine di bere. E così anche quei due hanno finito per accapigliarsi e Balailov ha lasciato protestando la casa di cura. Lucas sostiene che fin dall'inizio abbiamo fatto l'errore di incoraggiarlo nel vizio del bere. Avremmo dovuto semplicemente lasciarlo nelle mani del professore e trattare con lui soltanto quando era sobrio. Forse in tal caso saremmo riusciti a ottenere un contratto o comunque qualcosa su cui ora potremmo basarci. Baumann ritiene invece di aver fatto un grave errore a non psicoanalizzarlo. È sicurissimo, infatti, che col suo metodo sarebbe stato possibile guarirlo dal suo complesso matrimoniale ed evitare quindi la storia con l'idiota tutto nero. Harry ha preso parte pochissimo a queste discussioni così edificanti e fruttuose. Il nuovo fiasco lo ha reso pensieroso, ma non lo ha per nulla abbattuto. Forse è meglio così, mi ha detto con grande convinzione. È così facile disperdersi quando si mette troppa carne al fuoco. Adesso, per esempio, dovrei viaggiare continuamente dal Sudafrica alla Russia e dalla Russia alla Norvegia, dove prossimamente. Ancora un nuovo progetto? Ha domandato Lucas con raccapriccio. Oh sì, un nuovo affare che nel giro di pochi anni frutterà una barca di quattrini, ma di questo parleremo un'altra volta. La prego, sì, ha mormorato Lucas con voce fioca. Dopo tante emozioni siamo tutti un po' stremati e un qualche senso comincia ad averlo anche il fatto che ci troviamo in una clinica per malattie nervose. Intanto, pian piano, è arrivato l'autunno e gli attori se ne sono andati. Comunque era solo una troupe estiva, così anche le feste nell'ala separata languiscono e noi siamo ormai dei pazienti tranquilli, seppure un po' spossati e irritabili. Ma non è questo che ci si aspetta da noi? Il professore si occupa di nuovo dei nostri nervi e Baumann del trattamento dei nostri complessi. Harry ed io abbiamo capito da tempo che l'analisi non serve a niente, infatti, da quando è scomparso Balailov, il nostro complesso del denaro, il mio come il suo, si sta intensificando in maniera preoccupante. Se il mondo di quassù mi sembra troppo stretto, mi rifugio nel suo ufficio. Harry è seduto alla sua scrivania, fa conti su conti, compila preventivi e biascica cifre. Mentre io esamino i conti della clinica che diventano ogni giorno più astronomici, Lucas è seduto accanto a noi con aria rassegnata. Notizie dal suo consorte? Il mio consorte? Ah, no, sì, arriverà qui prossimamente. Sai, quando sono immersa nei miei conti non riesco a far subito mente locale. Lei però dovrebbe prendere l'abitudine di indicare il signore di cui stiamo parlando col suo giusto titolo. Non penserà mica di presentarlo tout court come il coerede? Non ho la minima idea di quello che devo fare o non fare, che noi due siamo sposati e nessuno lo crederà mai. Ci diamo del lei. E io so pochissimo della sua vita e così pure lui della mia. Potrebbe davvero sembrare una stranezza se ad ogni piè sospinto dovessimo prima darci l'un l'altro dei chiarimenti in merito. E allora lo presenti come suo cugino. Ho detto che trovavo non male la sua proposta, ma Harry, che era di cattivo umore, mi ha accusata di voler fare del cinema a tutti i costi. Già tutta questa storia del matrimonio ha aggiunto sembra proprio un film. Ma l'accusa era ingiusta, perché davvero non ci posso far niente. Tu sai più o meno come sono andate le cose. Lui voleva sposarsi perché temeva altrimenti di essere diseredato e quindi ha messo a disposizione per la futura sposa metà dell'eredità. A quell'epoca io mi trovavo a Parigi senza sapere bene che fare e dei comuni conoscenti mi sottoposero la questione facendomi balenare delle cifre piuttosto alte. Di loro ho un ricordo vivissimo quando, seduti a un piccolo caffè di Montmartre, si domandavano perplessi: deve farlo? O forse è meglio che non lo faccia? Io in realtà sono stata a malapena richiesta di un parere, ma poi ho dato il mio assenso per iscritto e mi sono recata nella città in cui si trovava il mio promesso sposo. Era stato descritto come un barone degenerato e anche questo mi allettava, ma il suo aspetto era quello di un pirata in borghese e poi beveva, era tutta qui la sua degenerazione. La famiglia mi trattò con un certo scetticismo e soprattutto volle sapere se possedevo un patrimonio. No, ma ero in attesa di possederlo in un prossimo futuro, il che, nel caso quel matrimonio si fosse concluso, corrispondeva peraltro alla verità. Tutto il resto ebbe poi un'evoluzione singolarmente propizia. Le circostanze più incredibili mi vennero in aiuto, sicché, in breve tempo, anche agli occhi di suo padre, il vecchio signore che adesso appunto è passato a miglior vita, sono riuscita a recitare con successo la parte dell'angelo devoto. Ancora adesso ripenso sovente con malinconia a quel fulgido momento della mia carriera e devo proprio congratularmi con me stessa perché mai, né io né gli altri, avremmo immaginato che una cosa simile potesse capitarmi. E in effetti non durò a lungo, appunto fino a quando apparve chiaramente che io e mio marito non avevamo messo su casa insieme e che anzi, in patria come all'estero, abitavamo i due poli opposti. E se qualcuno per caso ci interrogava, né io né lui sapevamo mai che cosa l'altro facesse e dove abitasse. Alla fine, tra l'altro, si sparse la voce del nostro contratto. Tutte queste cose ho di nuovo dovuto illustrarle a Lucas in ogni particolare, compresa la personalità del mio sposo e coerede. Poi abbiamo deciso di comune accordo che la cosa migliore è che egli si stabilisca giù in città. Sono sicura che al momento il professore non vuole più avere a che fare con gli alcolisti e a quanto ne so io quell'uomo ha un carattere estremamente schietto e dunque non sarebbe in grado di simulare un desiderio di disassuefazione o di un altro qualsivoglia tipo di terapia.